Tra le righe, spunti, incontri e divagazioni con Adelaide Spallino. Passato giugno con le sue ultime bollenti giornate ed anche quest'anno si è rivelato il mese preferito per le cerimonie nuziali, settore che non conosce crisi né sul piano economico né sul piano degli adepti, visto che il numero crescente delle separazioni non scoraggia più di tanto. La macchina che si mette in moto per l'organizzazione di un matrimonio in famiglia è gigantesca, frenetica ed infernale, dato che nessun membro degno di essere chiamato fratello, sorella o genitore a vario titolo può esimersi dall'avere un compito, un incarico ad interim per poter rendere quel giorno il giorno indimenticabile e, se non proprio perfetto, qualcosa comunque che possa somigliargli. Si inizia mesi prima e la parola chiave è scelta della data, dei testimoni, delle bomboniere, della chiesa, del luogo del ricevimento, del fotografo, dei vestiti, del bouquet, della torta nuziale, del menù. Un vero e proprio tour de force a cui perfino la ragazza più spartana alla fine finisce col cedere, abbacinata comunque dal sogno romantico e segreto da coronare. A sollevare gli sposi da molta fatica, oltre che da veri e propri patemi d'animo e turbamenti per una quasi impossibile collocazione a tavola della zia o del parente di turno che non si parla con gli altri, da tempo corrono in aiuto i wedding planners, ovvero professionisti nell'organizzazione dei matrimoni. Loro trovano i rimedi a tutto, o quasi, sapendo che devono barcamenarsi tra i desideri delle spose e le velate pretese delle suocere. In genere riescono a non scontentare nessuno e agli sposi non rimane che rilassarsi, più o meno. Una brillante e capace professionista del settore è senza alcun dubbio Isabel Buchbinder. Chi è Isabel Buchbinder? È la protagonista del libro Le disavventure di una wedding planner di Holly McQueen, pubblicato da Sperling e Kupfer. Isabel è già presente in altri due romanzi della McQueen. Certo, all'inizio non dà molto l'impressione di saperci fare e qualsiasi futura sposa penserebbe di starle a largo chilometri e chilometri. Chi vorrebbe di fatti presentarsi al proprio matrimonio nella chiesa sbagliata con lo sposo sbagliato? Una cosa così merita senza alcun dubbio il licenziamento. E questo si verifica puntualmente, ma Isabel non si scoraggia, si mette in proprio e acquista punti man mano che la lettura procede e le sue avventure nel rutilante mondo delle cerimonie nuziali coinvolgono parenti, amici e collaboratori. Per Isabel la perfezione è una meta agognata e una bella occasione gliela offrirà l'organizzazione del matrimonio della sua migliore amica. Lì scoprirà quanto molte cose si possono controllare, ma tra queste non c'è la direzione che prendono i sentimenti all'improvviso, né la direzione del bouquet della sposa dopo il lancio. Le disavventure di una wedding planner di Holly McQueen. Ed ora potete baciare la sposa. Tra le righe e Adelaide Spallino vi danno appuntamento alla prossima puntata.